30 anni di esperienza non mi posso sbagliare, capito? Perché se da te arriva in un certo, ad un certo livello e qua mi arriva ad un altro livello, l'importante è tra Via Pascoli e il monte, ok? Non dico altro, poi chi vuole capire capisce, chi vuole dire la sua la dica. Io non so niente, non me ne affutti nulla, ognuno fa quello che le piace. Però qua, poco fa, non passava nessuno, era 9.40 e quando accordava arrivava anche a 50, perciò... Aiuto, grazie a questa portante, dai, lasci ti butto il campanello, dai, fa che campana. Continua. Ah, non si ammazza. Gatto, ti fida, gatto, ti sfida, gatto. Ma guarda, io non ho mai visto niente del genere. Io mi ricordo 30 anni fa quando c'era la portante, come ti sia caduto in macchina, non la metteva più. Questo ti sfida, gatto, ti sfida, è proprio un pezzo di merda. Non è colpa sua, è nato, capito? Allucinante, cazzo, allucinante. Una cosa che piglia il gorilla. Cazzo, mi fece la risa ma mi incazzo, cioè, mi fa ridere ma allo stesso tempo mi rende nervoso. Ma sai che vivo in macchina? Cazzo no, continua. Attenzione Salvatore, Bobore, aspetta un attimo, mi sono anche dimenticato, ti faccio uno squillo. Se sei sicuro, non ti mettere nei guai, vai a dire a tutti i dini. Cazzo, mi sono toccato, ma non faccio ma con Duca, aiutai. Parliamone prima, Olu, prima ne parliamo tutti assieme, e poi vuol dire ci fa il nome, prima parliamone. Aspetta, ti confermo se è lui o no, aspetta. Non dico nulla. Non lo scala qua, te, cos'è che stiamo con l'UBL? Se è lui arriva sempre con lo scala, anche se non è con l'UBL, se è lui. Ecco, come ti ha detto Natalino, per confermare, rimani fermo dove sei e togli il PL. Se il PL arriva, se senza PL arriva a fondo scala, allora è lui. Se non arriva a fondo scala, Luca, vuol dire che non è lui senza PL. Col PL ti possono arrivare tutti a fondo scala in questa zona, compreso io. Se però tu ne togli il PL e il segnale rimane fisso a fondo scala sotto dove sei adesso, vuol dire che è lui. Se non è a fondo scala non è lui. Se è intelligente non è buono. Sai come ti dici Natalino che è malato? Allora sei fottito. Tu stacca il PL e non parlare. Tanto a me mi senti anche senza PL se sei qua vicino. Non a fondo scala ma mi senti, quindi. Ma vuoi che si venga? È lui, va? Guarda qua come una cosa che piglia rugori a vero, Una cosa che piglia rugori, cazzo. Chi è? Ha passato Tony Davide. Sì, che c'è portante. Ho detto Ciao Davide, salutoni. Ciao Davide, c'è una portante però, Sto arrivando 9:10 qua. C'è portante, non so cosa dirti. Sono veramente, non lo so. E ho visto che la 27 non è cambiata di molto. E come fa a cambiare? Se non ci fossero queste persone, bisognerebbe inventarle. Vabbè, là, io rimango in ascolto che sto costruendo un parametro, quindi niente. Ok, buon proseguimento. Eia, dai, ci sentiamo, stiamo bene. Luca, attaccato la EPL. Continua, paga. No, a quel punto è molto forte, segnale il tuo più a fondo. Più a fondo è lui, un lì che spiga. E a 9, sul più del 230 mi arriva, dai. Ma senza antenna? No, con l'antenna, tu mi arrivi con l'antenna a Santiago 1, lui non ci arriva, lui non è che sia. Perfetto, bisogna fare senza antenna prima di parlare, capito? Senza antenna, quando si è sul punto di combattimento bisogna attaccare l'antenna, perché l'antenna non serve più a niente, non serve più a niente. Io sono uno in via Pascoli, e dico che l'antenna invece è fondo scala, perciò deve essere senza antenna, fondo scala, come che c'è l'antenna attaccata, allora si è arrivato. Se non arriva a fondo scala senza antenna, buga di mio gabbo, che il punto non è quello, non è quello. Ascolta, buona cosa, Clark, dai, chiamala tu, che mi sto spostando. Chiamala tu, la sta portando, poi vediamo, poi ti confermo dove. Sì. Vai fidato, lui sa dove siete, perché vi sente, non è matto. E la mette perché sa che non è la zona che dove siete voi, ecco perché, sono la premessa, capito? Un attimino solo, torno subito che mi sta chiamando mia moglie, riprendi un attimino. sta portando, è chiaro. Ma non è che si trova, no? Quindi il segnale forte e forte va a scattare, eh? Ah, ma è chiaro che è importante, no? Grazie a un medico. l'abbia con me in particolare, ma la mette i segnali bassi, perché lo sai che con me non, magari mi conosce anche, ma non gioca sai conmigo, capito? Perché me lo mangio come quando voglio. La mette i segnali bassi ed è una vergogna, cazzo, per fare le bugie a tutti. A proposito, a te quanto ti arriva la Budirudi? Si accende tutto nella Budirudi, ve l'ho detto Luca, ve l'ho detto. Siamo in Badia di tutto, siamo i rendi, siamo i rendi, invece siamo noi. L'importante è qualcuno che ha attrezzatura buona, o la veloce, o verso il Monte Alto, o fuori di questa zona. Sabato mattina, certo non com'è. Vedi che è una cosa esagerata, quando ve lo dico io, dimmi che non è vero, vedi che è una cosa esagerata, che vi gira le palle anche a voi che arrivate bassi. Sì, ma se lo mette la portante.